sei di? San Colombano. San Colombano. Produttore enologico? No, produttore di vino, di uva e vino di San Colombano, biologico, certificato ICEA, l'azienda si chiama Gruppo Vignaioli di San Colombano. E come mai avete deciso di aderire all'idea della Critical Wine? Ma ci interessava conoscere un attimino e farci conoscere in un ambiente dove sono critici rispetto al vino, cioè nel senso che si vogliono avvicinare al vino con uno spirito, mi sembra di aver capito, con uno spirito di conoscenza innanzitutto e non di etichetta, pura etichetta, e siccome noi da anni ci muoviamo in questo senso, penso che ci possa essere un punto di contatto. Sì, la Critical Wine era un obiettivo abbastanza ambizioso, quello di cambiare la filosofia di fondo che sta nel rapporto tra produzione e consumo, tra l'uomo e la terra e così via. Sì, beh, sarebbe molto lungo spiegare la storia della nostra azienda, che nasce da un incontro addirittura tra studenti della facoltà di agraria e agricoltori della zona. Che era tuo padre, qualcuno dei... No, io sono uno studente, ero uno studente. Sì. E quindi è nata questa azienda, un lavoro sul territorio, una tesi di gruppo fatta ai tempi, quindi coinvolgendo docenti, facendo delle battaglie anche all'interno dell'università, oltre che con le amministrazioni comunali di paese. Da questo nasceva ovviamente un modo di produrre che salvaguardasse il territorio e quindi anche una produzione biologica. Questo ancora prima che nascesse regolamenti vari, quindi partire dalla tradizione per arrivare... Hai già partecipato alle altre Critical Wine, non so, la prima. Mini edizione di Aviate Grasso, ok. E cosa ne pensi del rapporto tra la Critical Wine e, come dire, il movimento no global, alter global, così, che converge spesso? Non ne sono molto informato, perché purtroppo ho poco tempo di seguire tante cose. Può essere sicuramente un punto di contatto. Okay, grazie.